Radio 24 Reportage. Nel Sulcis, da ricca provincia a simbolo della crisi, di Valeria De Rosa. Siamo una piccola provincia con 130.000 abitanti e abbiamo intorno a 39.000 disoccupati. Per quanto riguarda i giovani abbiamo un 74% di disoccupazione giovanile. Non so se siamo i più poveri, però so che siamo in una zona depressa del nostro paese, bellissima per altre cose, però credo che solamente con un unico settore non può risollevare l'economia di questo territorio, neanche della Sardegna. Quindi chi dice che si può sopperire al problema della mancanza di industrie con il turismo, io credo che stia sbagliando dati. Credo che occorra fare tutto l'insieme di infrastrutture che permettono di avere sia l'industria che sviluppare gli altri settori, dall'agroalimentare al turismo. Bruno Usai era delegato RSU all'Alcoa, ora, come gli altri operai, è in mobilità. Mi racconta che quando ha cominciato a lavorare nel 1988, fece domanda in due stabilimenti del polo di Porto Vesme. In entrambi fu accolta. E lui scelse quella che allora si chiamava Alumix, divenuta poi Alcoa, segnando così il suo destino, perché l'altra fabbrica lavora ancora. Il Sulcis era la regione più ricca della Sardegna. La maggior parte delle industrie erano qui. Qui le miniere di carbone hanno attirato italiani da ogni regione. Qui non si parlano dialetti, perché di sardi, proprio sardi, ce ne sono pochi. Buoni stipendi hanno permesso un buon tenore di vita e ora buone pensioni permettono a tante famiglie di andare avanti. Insieme a Iglesias, Carbonia è la cittadina più grande del Sulcis. È giovane Carbonia, classe 1938, nata per ospitare i lavoratori delle miniere. Architettura del ventennio, tra le costruzioni basse. A pochi chilometri c'è il mare. Non lo vedi, ma lo senti. Una fotografia che vede una città in difficoltà in questo momento, una città ferita. Dal 2009 a oggi sono cambiate tantissime cose, avevamo tantissimi posti di lavoro, tantissime persone della nostra città e del nostro territorio che avevano un lavoro presso le fabbriche. Questo portava dei vantaggi sostanziali anche alla nostra città, nel settore del commercio, nel settore dell'artigianato, nel settore dei servizi. Naturalmente il crollo industriale ha portato dei problemi che in questo momento si sentono profondamente. Giuseppe Casti è l'ex sindaco di Carbonia. A giugno ha perso al ballottaggio contro la candidata 5 Stelle. Dalla sua nascita Carbonia è sempre stata rossa. La crisi ha spazzato via il lavoro, ha chiuso, come un domino, decine di negozi di via Gramsci, la strada commerciale della città, ha spento i consumi. Le persone prediligono rinchiudersi in casa piuttosto che creare, uscire di casa e fare. Si sta stagnando un po' tutto a causa appunto del poco lavoro. Un tempo si usciva molto di più in giro, si andava per locali, a parte che ormai i locali non ce ne sono tantissimi, sono veramente contati. C'era molta più gente 10 anni fa, 15 anni fa, proprio nei locali ma anche in giro, per strada, era tutto veramente diverso. Ora molta gente si trova davanti al computer, in casa, a livello sociale è questo. E anche il fatto di dover uscire, andarsi a mangiare una pizza, sta diventando problematico. Nicola è giovane, ha un suo negozio e fa parte di un gruppo di ragazzi che qualche anno fa ha creato un sito, carbonia.net, per raccontare, promuovere, attirare e fornire notizie anche a chi nel Sulcis ci vive già. Fino a 2 anni fa il Sulcis Iglesiente era la provincia più povera d'Italia. Lo scorso anno è stata superata dal Medio Campidano, solo pochi chilometri più a nord. Carbonia l'abbiamo vista fiorente, l'abbiamo vista sempre in battaglia, miniere, poi le industrie e poi l'abbiamo vista anche pian piano crollare. Man mano che crollavano le miniere, man mano crollavano le industrie, crollava anche la città. Oggi siamo quasi ai minimi termini, che oggi chiudendo quello che rimane, la Carbonia, e sparisce. Basta fare un giro a quest'ora, sembriamo una città in coprifuoco, che è vergognoso, perché Carbonia era una città sempre, diciamo, allegra, gente fuori, gente camminava, si incontrava. Qui no, purtroppo è così. Pietro Saliu è il direttore dell'associazione 5 Parole. Quando hanno cominciato nel 1998 si occupavano di adozioni a distanza perché il territorio non aveva bisogno. lo incontro nella sede dell'associazione, stracolma di vestiti e scarpe e giocattoli. Passare da 60 assistiti, andare a finire a 100, andare a finire a 4.500 contatti annui dello scorso anno, è tutto dire, eh? Carbonia e territorio, perché il progetto era territoriale. Oggi, se andiamo a leggere qua, cominciamo, tutto il Basso Sulci c'è. Quindi non è solo Carbonia, ne soffre tutto il Basso Sulci. Carbonia fa da capofila, perché Carbonia, vediamo persone che manco lontanamente mi sarei immaginato di vederle qui. Il ceto medio, che è quello praticamente proveniente dall'industria. Però abbiamo visto anche qualcosina di più in alto. La gente dona, però la gente prende. Abbiamo attrezzato questo come un negozio proprio per poter far entrare le persone senza vergogna, perché altrimenti non venivano qui. Mai sono venuti qui. All'inizio si nascondevano. La Costa Smeralda, con le spiagge attrezzate, i resort 5 stelle, i centri costruiti dal nulla, è all'estremo opposto dell'isola, ma anche la Gallura è lontana, la Costa Rei. Qui i fianchi sono selvaggi, scontrosi. Se vuoi l'isola, devi andartela a prendere. Però poi ti ripaga. Nebida, Masua, Porto Flavia, i Faraglioni, Cala Domestica. Più a sud le dune di Piscinas, Sant'Antioco, Porto Pino, anche Porto Scuso. Alle sue spalle c'è il polo industriale di Porto Vesme. Eppure quando il mare ti si apre davanti, anche le fabbriche sembrano aver trovato un loro posto. Quelle fabbriche da cui la crisi e le logiche industriali hanno sputato fuori centinaia di operai, tra loro quelli di Alcoa. Non ho trovato niente. Poi è difficile trovare. Non ho bloccato la mobilità neanche un mese. Poi è molto difficile trovare, non trovi niente. C'è la gente, i giovani che sono a passeggio, giovani, più ci aggiungiamo anche noi, e non c'è niente, non trovi niente, non c'è niente. Qua o vai via, poi dove vai anche, non è che è facile. Una famiglia non è così facile. E poi ci vogliono soldi per andare via, non è che decidi di andare via così. Una quotidianità interrotta che rode le famiglie dalle fondamenta. Quando rientri a casa e tua moglie ti chiede cosa c'è, oggi come oggi, quando mi chiede qualcosa, cioè non dico neanche più quello che so, perché diventa difficile, perché poi magari, perché mi è capitato di sentirmi dire, ma era anche l'altra volta così. Quindi sì, ti trovi un po' in imbarazzo anche, perché non sai neanche cosa dire, abbiamo avuto troppe delusioni, quindi troppe. La situazione è così. A volte ci siamo avvicinati e poi tutto in un colpo ci siamo ritrovati. E quindi anche io a mia moglie, sinceramente, non gli dico più niente come Sandro, perché non è inutile che gli dico stiamo per questa volta, ce la facciamo questa volta, e lei mi dice ma anche l'altra volta mi hai detto la stessa cosa, ma anche l'altra volta, e quindi si creano anche dei litigi. La situazione è un po' difficile anche per loro, perché io ne ho una all'università a Cagliari, un altro alle superiori, e alla fine mancano anche i soldi per poterli farli studiare, per farli continuare quello che stanno facendo. Sì. Perché poi alla fine anche quella che ho a Cagliari, che studia a Cagliari, è una rata mensile, devi toglierla da quel pochino che ti danno. Quindi io, per esempio, ho una ragazza che si diplomerà al liceo scientifico, e che quindi l'anno prossimo andrà all'università. Il mio pensiero è: avrò i soldi per poter pagargli gli studi? Se non riuscissi, sarebbe una sconfitta per me padre, per me genitore. La nuova amministrazione non ha, per il momento, dato quella svolta promessa che l'ha portata in comune. Al presidio degli operai non si è visto nessuno. Le associazioni sono in allarme perché molti fondi sono stati tagliati, così come molti servizi, tra cui gli asili nido. La sindaca pentastellata, Paola Massidda, non ha potuto o voluto incontrarci. Carbonia, così come il Sulcis, resiste, anche se a denti stretti, e sarebbe ingeneroso dire che è solo per il carattere testardo di questa gente. C'è la speranza, c'è la dignità, c'è la voglia di tornare a sporcarsi le mani, in fabbrica per esempio. Vieni qua, parli con i colleghi, magari qualche notizia buona ti dà coraggio, continui, anche se poi non si risolve niente, però intanto vai avanti e cerchi di non pensare, però è che ormai stiamo arrivando alla fine. Quanta voglia avete di tornare in fabbrica? Su 100 o 3.000. C'è una voglia immensa, anche perché poi senza il lavoro ne passano le voglie, passa la voglia di fare qualsiasi cosa, non, ci si sente un pochettino abbandonati, ecco, non inutile. E quindi speriamo. I see returns to you somehow. Should I tear my heart out now? Everything I feel returns to you somehow. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.